prenderà suo cuore. Apile, degli estini che hai misero, avanza il consueto. Mai non passar via barbara, ed il tuo consorzio allato.